versi leggi. Come un bel dì costei concesso un ultimo colloquio. Il condannato Andrea Chenier sta ben. Giovine tempo di assegnati. Io non vorrei, capite? Io non so nulla, al nome della Redre salite in fretta. Io non so nulla, nulla. Di sole